100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Luci e ombre sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è lievemente aumentato a dicembre, più 0,1% all'11,4%, ma rispetto a dicembre 2014 si registrano 109.000 occupati in più, un aumento leggero, più 0,5%, ma comunque importante. Il tasso di occupazione, 56,4%, rimane invece invariato rispetto a novembre. In Europa le cose sono andate un po' meglio. La disoccupazione è scesa al 10,4% contro il 10,5% precedente e la disoccupazione giovanile si è attestata al 22%, una bella differenza con il 37,9% registrato invece in Italia. Il lavoro resta dunque un problema e le misure del Jobs Act faticano da sole a produrre grandi risultati. L'incertezza delle imprese è alta e l'andamento dei mercati non aiuta le aspettative. In questo senso però è molto positiva la decisione di estendere l'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016 ai collaboratori che vengono stabilizzati dalle imprese. Una circolare del Ministero del Lavoro sulle collaborazioni coordinate e continuative chiarisce il punto dopo che il codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto. In particolare, il nuovo codice ha previsto la possibilità di una loro stabilizzazione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2016, previo accordo transattivo firmato presso le direzioni territoriali del lavoro, in cui il lavoratore deve rinunciare a ogni pretesa riguardo al precedente rapporto di collaborazione. Speriamo che anche questo sia un passo in più, soprattutto per l'esercito dei collaboratori, che in Italia è ancora molto grande. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il mercato finanziario sempre più difficile, che mette soprattutto paura per il crollo continuo delle banche, l'accordo per la ristrutturazione del debito argentino, ma soprattutto l'accordo che restituisce una parte della somma dovuta agli obbligazionisti italiani che avevano comprato i Tango Bond, è un segnale certamente positivo, ma la battaglia non è finita. Malgrado i titoli trionfalistici sull'operazione, l'accordo che dovrà chiudere sostanzialmente la partita per almeno 50.000 risparmiatori italiani che avevano comprato 900 milioni di bond argentini, ma non avevano accettato il precedente accordo di ristrutturazione, dovrà ora passare all'esame del mondo politico e questo non è certamente facile. Il presidente argentino dovrà infatti ottenere l'approvazione per restituire 1,35 miliardi di euro agli italiani del Parlamento, un Parlamento dove l'opposizione è molto forte e soprattutto dove anche il movimento peronista è diviso sul sostegno da dare al governo. Fatto sta comunque che se l'Argentina riesce a portare a casa questa operazione, gli italiani recupereranno un po' di soldi o almeno quello che è rimasto dei vecchi risparmiatori italiani, in quanto molti sono scomparsi e quelli rimasti hanno un'età compresa fra i 60 e gli 80 anni. È una partita importante che deve essere chiusa soprattutto per un motivo. L'Argentina ha avuto oggi un prestito da quasi 5 miliardi di dollari dalle banche di investimenti di Wall Street, ma se vuole uscire dal tunnel della crisi deve tornare sui mercati dei capitali internazionali per potersi finanziare, cosa che oggi non è permessa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.